Aqui a tribo seria distribuída de escolha o sucesso e para o modo ad primo milita botgelis e nevogelito e si tradiveram de guida marco bruto e ruente di xisse cae si Contro ogni previsione, dopo quel primo momento di tensione, le cose parvero riprendere il loro corso consueto. Per quanto possibile ci attenemmo alle disposizioni di Folegari in merito all'uso dei telefoni e alle uscite, ma a parte questo la nostra quotidiana attività non subì mutamenti sostanziali. Certo eravamo preoccupati per Corvero, era impossibile non domandarsi dove fosse e se stesse bene, ma per il momento non ci era possibile rintracciarlo. A dire il vero, decidemmo di organizzare, di nascosto da Folegari, una spedizione segreta per raggiungere il presidente e interpellarlo su da farsi. Uno o due di noi sarebbero potuti sparire prima che se ne accorgesse e partire alla volta della città eterna. Il piano però cadde da sé quando, quasi avesse intuito le nostre intenzioni, Folegari entrò nella sala di Pompeo passandoci Corvero al telefono. Francesca, Enrico e poi io parlammo a turno con lui per pochi minuti. Nulla poteva far dubitare che non fosse il solito o che parlasse sotto costrizione. Ci rassicurò prontamente, disse che stava bene, che era al corrente della situazione e poi, ridacchiando in modo allusivo, garantì che l'ermetico era un amico. Era chiaro che non voleva fare il nome di Folegari. Infine promise che a tempo debito ci avrebbe spiegato ogni cosa. Ci salutò e riattaccò. Non ci aveva detto dov'era, ma almeno adesso sapevamo che stava bene. Per il momento doveva bastarci. Corvero aveva chiamato Folegari l'ermetico alludendo alla sua appartenenza alla Hermes. Il soprannome ci piacque e da allora prendemmo a chiamarlo così. Ho detto che mi ero ripromesso di interpellare Folegari a quattro occhi e lo feci. Come previsto non scoprì nulla, ma nonostante la sua ambiguità ebbi modo di non giudicarlo negativamente. È vero, di un uomo che non parla non si può non diffidare, eppure l'esperienza insegna che è da chi parla troppo che bisogna guardarsi. E nel nostro gruppo c'era davvero un delatore. Ma non era lui. Trascorsero 3 settimane senza che le nostre ricerche approdassero ad alcunché di concreto. Eravamo convinti di aver ormai imparato a padroneggiare la regressione temporale e il paleofono sembrava funzionare correttamente. Eppure dalla statua di Pompeo non riuscivamo a cavare che un confuso vocio, il caratteristico parlottare di una piazza o di una via affollata. Nella squadra ero l'unico a conoscere un po' di latino, e in effetti qua e là mi sembrava di distinguere delle parole proferite nell'antica lingua. Però dell'evento che ci proponevamo di ascoltare non c'era traccia. Era il paleofono a presentare un'anomalia o eravamo noi a sbagliare? Ma cosa e dove, poi? Infine non si poteva nemmeno escludere che quella della statua di Pompeo fosse una pura leggenda, e in quel caso nulla avrebbe potuto risparmiarci un sonoro, anzi un muto fallimento. In ogni caso quell'incertezza era snervante e il team diveniva ogni giorno più silenzioso e inquieto. Fu così che una mattina proposi a Francesca di accompagnarmi dai miei il giorno dopo. Fino a quel momento mi ero sottratto alla visita di rito, ma ora avevo proprio bisogno di distrarmi un po'. E oltretutto, per quanto assurdo possa suonare, mi piaceva l'idea di presentarla ai miei. Francesca accettò e Folegari si limitò a raccomandarci di stare allerta. Così chiesi in prestito a Matteo la sua auto e l'indomani mattina partimmo all'alba, perché prima di andare dai miei Francesca voleva vedere i luoghi in cui ero cresciuto. I miei furono felicissimi dell'improvvisata. Ci fermammo a pranzo da loro, dopodiché vagammo a zonzo per un po', finché non decisi su 2 piedi, senza alcuna premeditazione, di portare Francesca a vedere il mio appartamento di Bollate. A di là di tutto non vi mettevo piede da tempo, e quantomeno era un modo per sincerarmi delle sue condizioni. Lo trovai in discreto ordine e pulito, soprattutto grazie alle costanti capatine domestiche di mia madre. Andavo piuttosto fiero della mia biblioteca e tra una cosa e l'altra finimmo per metterla su quadro, spulciando la mia ricca collezione in cerca di ogni possibile riferimento alle Idi di marzo e alla statua di Pompeo. Ricordo che d'un tratto Francesca diede in un'esclamazione. Imbattutasi per caso in una riproduzione del noto dipinto di Vincenzo Camuccini raffigurante la morte di Cesare, aveva subito notato un particolare interessante. Nel quadro la mano sinistra di Pompeo reggeva un globo, dettaglio assente nella scultura che stavamo analizzando. Né da essa poteva essere stato rimosso, dal momento che la mano di Pompeo era in posizione perpendicolare al terreno, inadeguata a stringere qualunque oggetto. E mentre, scartabellando qua e là, scoprivo che quella tradizione iconografica del globo, sfuggitami non so come, era documentata sin dall'antichità, Francesca mi sbalordì dichiarando che quella statua, con un globo in mano e con la gamba destra addossata a una colonna, esisteva e che l'aveva vista, ma non a Villa Arconati. Eravamo eccitati come due bambini, al punto che non ci prendemmo neppure la briga di mettere ordine nel caos che avevamo fatto. Tornammo alla macchina e ripartimmo, pronti ad annunciare alla squadra il cambio di programma. Si tornava a Roma. Viaggiando, in qualche modo sentivamo che era giusto così. Il cerchio doveva chiudersi dove tutto era iniziato, non altrove. Quando parcheggiamo davanti a Villa Arconati erano all'incirca le 6 di sera e stavamo giusto ridendo di tutti i misteri e le precauzioni di Folegari, ma una volta entrati fummo presi dallo smarrimento. La sala era deserta, il che era inspiegabile. In portineria non sapevano nulla, così rimontammo in auto e rientrammo all'albergo. Nella hall 7 membri del team ci vennero incontro sollevati ma anche visibilmente scossi, domandandoci notizie di Enrico, il nostro ingegnere acustico, dell'ermetico e dello scannerizzatore. In pubblico chiamavamo così il paleofono. Vedendoci cadere dalle nuvole, tornarono ad allarmarsi e subito vuotarono il sacco. Quella mattina, al risveglio, avevano trovato le camere di Enrico e di Folegari vuote e il paleofono, che quella notte era stato affidato a Enrico, era sparito insieme al furgone. Ma il vero pugno nello stomaco ci giunse pochi istanti dopo, quando ricevetti una telefonata da un collega della Cliomedia. Corvero era morto. Caissimo,